Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo rientrati. I nostri soliti guastatori, diciamo, del giovedì notte, 451 intersezioni, ritorna in diretta dopo aver saltato il giovedì scorso per problemi di varia natura che non vi sto certo qui a spiegare, ma avevamo, diciamo, avvertito la platea foltissima, immagino, di ascoltatori qua a Bologna, ovviamente a Facebook, su Facebook, sul nostro sito di Facebook, che appunto non saremmo andati in onda, mentre rientriamo stasera, dunque 451 intersezioni in questa giornata molto particolare, perché in realtà cade proprio tra giovedì 10 marzo ma anche venerdì 11 marzo 2016, l'11 marzo chiaramente una data che a noi di 451 sta particolarmente a cuore, essendo il 39esimo ormai anniversario del storico movimento del 1977, purtroppo anche la tragica giornata dell'11 marzo 1977, dove un militante, un compagno di lotta continua, fu ucciso dai carabinieri appunto negli scontri, nelle proteste, nelle manifestazioni che attraversarono quella giornata, in generalmente tutto quel periodo storico. Dunque una giornata che da parte di tutta l'area del movimento, di quello che rimane, i brandelli di questo movimento antagonista, ricorda in maniera particolare anche noi che facemmo una trasmissione proprio nel 2007 al trentennale dell'anniversario all'interno di 451 frammenti sonori. Dunque un caro saluto da Elisio Scarpa, anche se iniziamo con una giornata che, insomma, che ricorda delle cose non particolarmente belle o piacevoli, questo 11 marzo che oltretutto verrà ricordato venerdì, oggi stesso, insomma tra qualche minuto siamo già dentro il venerdì 11 marzo all'interno del VAG 61, un'intera serata dedicata a quelle giornate con documentari, discussioni, materiali, insomma un momento di riflessione, di incontro su quel periodo storico. Dunque sicuramente invito gli ascoltatori, se sono interessati, a recarvi al VAG 61 qua a Bologna. Inoltre ricordiamo ancora 451 intersezioni, troverete le puntate, le trasmissioni, le notizie sul nostro programma insieme all'altra trasmissione gemella che fa parte del network 451, cioè 451 frammenti sonori, condotto dall'amico e compagno Max Macchia, che saluto da queste onde. Ieri non è andato in onda, ma è andato in onda la settimana scorsa con uno speciale dedicato a questo lavoro splendido video e musicale costruito insieme ad Amanda Galas, Shrai, che è stato oltretutto anche proiettato in queste proprio ieri in un'intera serata al Teatro Testoni qua a Bologna. E ricordo anche che domani sera, cioè in realtà stasera, perché mi confondo sempre essendo a mezzanotte tra il giovedì e il venerdì, ma venerdì sera ci sarà il concerto di Amanda Galas, chiunque fosse interessato, intorno alle 9 di sera. Dunque non era presente ieri Max Macchia con 451 frammenti sonori, ma splendida trasmissione giovedì scorso, intervistando oltretutto, avendo anche delle notizie dirette rispetto al curatore del video, al regista, al curatore di questo video costruito dalla grande, con la grande Amanda Galas. Ricordo ovviamente 451 frammenti sonori condotto da Max Macchia, che va in onda sempre ogni mercoledì qua su Radio Città Fujiko dalle 23 circa fino a l'una di notte, mentre noi andiamo e partiamo dalla mezzanotte fino all'una, una e mezza, chi più ne ha più ne metta, in base anche all'energia e alla voglia del sottoscritto. E stasera ci sono molti anniversari, ritornerò sull'argomento però successivamente, perché sennò blocchiamo l'inizio della trasmissione per 10 minuti solo con anniversari e appuntamenti. Entriamo subito, diciamo, nel merito della puntata di stasera di 451 intersezioni, che ricordo per coloro che si fossero messi in ascolto solo per casualità o insomma sfortuna, usiamo questo termine, su queste frequenze, trasmissione che cura musiche sperimentali, di ricerca, d'avanguardia, insomma musiche che molti definiscono, diciamo, la massa, un po' inascoltabili, rumori o fastidi di vario genere. Speriamo di no, per gli ascoltatori che anche solo casualmente si sono messi in onda su queste frequenze. Nel frattempo voglio prima di tutto dare un'indicazione, che in particolare è la puntata di questa sera. Il tema di stasera è Abstruse Music 10. Si tratta di un viaggio praticamente nell'astratto, nell'assurdo e nell'astruso, anche la parola stessa lo ricorda in inglese, nell'astratto appunto sonico degli anni 10. Gli anni 10, noi usiamo questo termine di 451, anni 0, anni 10, qualcuno lo userà, qualcuno non capirà cosa significa. Gli anni 0 ovviamente sono dal 2000 al 2010, gli anni 10 sono dal 2010 al 2020, poi partiremo, se saremo ancora qui, anche con gli anni 20. Dunque, materiali molto recenti che partono dal 2012 fino al 2015, e iniziamo subito con il progetto Young Young, un progetto che veramente io mi sono devastato per cercare di trovare informazioni relative a questo progetto, ma non si trova assolutamente niente. Oltretutto è un progetto, un duo portoghese che ha fatto uscire i primi lavori, i primissimi lavori, praticamente in un periodo molto recente. Hanno iniziato il primo disco, uscito per la Night School Love del 2012, e stasera andremo ad ascoltare il penultimo album molto bello, Greatest Hits, uscito sempre per la Night School. Un progetto che si muove dentro un'elettronica appunto astrusa e astratta, molto molto variegata, da momenti dronici a momenti anche quasi a ricordarsi la musica glitch degli anni 90, inizio anni 0, comunque molto variegata, con delle particolarità e anche genialità sorprendenti che lasciano nell'ascoltatore una certa curiosità anche nel continuare il percorso. Brani anche molto corti, dei propri veri propri frammenti, ma a questo punto caliamoci subito dentro questo percorso di stasera, Abstract Music 10, capitolo 1, perché sicuramente faremo qualcos'altro riproponendo altri materiali degli anni 10 all'interno del nostro percorso. Andiamoci comunque subito a calare dentro questo magico mondo di Abstract Music 10 con Young Young dall'album Greatest Hits del 2014. Buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro. Ricordiamo ancora il progetto Young Young, l'album è Great Hits del 2014, dunque abbiamo aperto così un po' gli apripista di questa puntata di stasera Abstruse Music 10, e in questo viaggio dentro l'astrazione, l'astratto sonoro, ma anche l'astrusità e anche l'assurdità di certi suoni che attraversano e attraverseranno la puntata di stasera, ci caliamo invece dentro un altro progetto, questa volta britannico, una one man band. Si tratta di Darren Jordan Cunningham, che oltre ad essere un musicista elettronico sulla scena della musica elettronica sperimentale dal 2008 circa, è anche stato il creatore, uno dei creatori dell'etichetta Work Disc, oltre al fatto che in questo album particolare che andremo a sentire ora, l'ultimo lavoro uscito nel 2014, c'è anche di mezzo la Ninja Tune, etichetta storica degli anni 90, una delle etichette britanniche più interessanti della scena della trip hop, della jungle, ma anche di una certa jazztronica molto elaborata e molto intelligente, che è ancora attiva. In questo caso, ad esempio, ha prodotto insieme alla Work Discs l'album che andremo adesso ad ascoltare, Ghettoville. E in questo Ghettoville di questo interessante autore Darren Jordan Cunningham, in arte Actress, perché questo è il progetto, il nome è Actress, lavora non soltanto sull'aspetto, diciamo, astratto, ma anche su dimensioni ritmiche legate alla techno, all'ambient, ma anche molto al dubstep, che di 451 già da alcuni anni stiamo attraversando. Comunque siamo incuriositi per molti progetti estremamente interessanti rispetto a questo ulteriore linguaggio aperto proprio negli anni 10. Ma prima di ascoltare la traccia tratta da Ghettoville, uscita, lo ricordo ancora, per la Work Discs e per la Ninja Tune nel 2014, è giusto anche ricordare i 40 anni di questa radio, perché proprio quest'anno c'è il quarantennale della radio, che va anche a coincidere per alcuni versi. Radio Città Fujiko collaborerà anche, parteciperà all'iniziativa ad esempio di domani sull'11 marzo, non soltanto quella serale legata appunto allo spazio Vag 61, ma anche alla commemorazione che ormai da diversi anni viene fatta alle ore 10 del mattino, proprio in via Mascarella, nel punto dove è stato ucciso Francesco Lorusso nel 1977. Lì poi si alternano dimensioni di movimento, dimensioni anche istituzionali, che francamente, giustamente, i compagni e le compagne che negli ultimi anni si sono presentati hanno contestato, perché effettivamente è abbastanza ridicolo che poi le stesse istituzioni cittadine, che all'epoca, ma anche per gli anni successivi, hanno cercato sempre di ridimensionare o comunque di giustificare tutte le forze dell'ordine, o comunque anche i soggetti preposti in quel periodo storico del 77, quasi appunto a cercare di dimenticare le responsabilità e unirsi tutti in un coro unanime di ricordo, di umanità legata a questo brutto episodio. In realtà c'è molto di più, e ovviamente i rappresentanti istituzionali spesso cercano di scavalcare quello. Meno male che non solo i compagni, che erano stati anche amici di Francesco Lorusso, dunque che hanno anche una certa età, ma anche i compagni giovani che hanno portato avanti ancora le iniziative, le stanno portando tuttora avanti, del movimento antagonista bolognese, hanno memoria o comunque si sono ben informati rispetto a chi erano i veri responsabili di quel accaduto. Bene, dopo anche il ricordo del quarantennale della radio, che porterà avanti nei prossimi giorni e prossimi mesi anche varie iniziative appunto per festeggiare questi 40 anni, andiamo subito a calarci dentro l'abstrusità del progetto di Actress dall'album Ghettoville 2014, e come dico sempre io, buon ascolto. We'll be right back. Rientrati dunque dopo questo bel blocco, diciamo, queste due tracce mixate che lavorano veramente molto bene sulla dimensione techno dubstep. È un interessante progetto questo di Actress, ricorda ancora Darren Jordan Cunningham, progetto che si muove perfettamente dentro il concetto di Abstruse Music. Ricordiamo, stasera mandiamo in onda materiali che vanno dal 2012 al 2015, dunque estremamente recenti, quelli che fanno parte, diciamo, della prima metà degli anni 10. Ormai siamo già nella seconda metà, essendo nel 2016, e dopo aver ascoltato il progetto Actress, ricordo ancora dall'album Ghettoville uscito per la Work Disc e Ninja Tomb nel 2014, andiamo a presentare il prossimo progetto. Ma prima di presentarlo è giusto ricordare, anche perché ormai siamo a meno di un mese di distanza e francamente noi di 451 ci teniamo moltissimo a informare gli ascoltatori che potrebbero essere interessati, soprattutto per a chi è dedicata questa rassegna, questo concerto. Ricordo che l'Area Sismica, locale, progetto musicale non solo, che ormai da tanti anni porta avanti un discorso legato alla sperimentazione e alla ricerca artistica, che si trova in Ravaldino in Monte, provincia di Forlì, con cui abbiamo un rapporto di collaborazione, amicizia ormai da diversi anni, proporrà per la giornata di sabato 9 aprile, dunque lo diciamo già in anticipo, ma lo ricorderemo anche nelle prossime puntate di 451 Intersezioni. Sicuramente a distanza ravvicinata dal concerto avremo un collegamento radiofonico con i curatori dell'Area Sismica per promuovere questa serata. Sabato 9 aprile, dicevo, alle ore 21 a Forlì, in realtà in piazza da Montefeltro a Forlì, al Teatro Comunale, ci sarà il concerto degli Arditi Quartet, storico quartetto d'archi che porta avanti moltissime produzioni personali, ma anche moltissime collaborazioni, interpretazioni ed esecuzioni di grandi autori della musica contemporanea, ma anche della musica elettronica del Novecento e degli anni Zero. Arditi Quartet, che faranno appunto questo concerto proprio in ricordo di Pier Antonio Pezzinga, nostro compagno, amico e curatore per tanti anni all'interno di Radio Città Fujiko, del programma Intersezioni, che appunto poi noi di 451 dallo scorso anno abbiamo cercato di portare avanti come memoria storica, umana, musicale e politica di quel programma, costruendo e proponendo la stessa radio, che ha accettato con grande apprezzamento il progetto 451 Intersezioni, cioè questa trasmissione che lo scorso anno è andata avanti, diciamo, nell'orario tipico della vecchia trasmissione di Pier Antonio Pezzinga, che era appunto il lunedì dalle 20 alle 21. Quest'anno invece si è spostato in orario notturno, ma lo scorso anno abbiamo proprio continuato nello stesso orario di Pier Antonio, che purtroppo è scomparso. Ormai sono passati 2 anni, e in questi 2 anni, che poi insomma hanno cambiato molte cose, abbiamo sicuramente programmato, insomma, un percorso di ricordo di questo evento, sicuramente all'altezza della giornata del 21 di marzo, la giornata in cui è scomparso Pier Antonio. Sicuramente a 451 Intersezioni faremo qualcosa, un ricordo, un accenno a Pier Antonio Pezzinga, al suo spazio radiofonico, che è stato sicuramente molto molto importante. Noi abbiamo portato avanti la stagione 2014-2015 nell'orario appunto tipico di Pier Antonio, e da quest'anno 2015-2016 ci siamo spostati il giovedì dalla mezzanotte all'una e mezza circa. È un ricordo dovuto. Arditi Quartet, dunque, ve lo ricordo ancora, sabato 9 aprile a Forlì. E noi adesso ovviamente presentiamo e continuiamo il nostro percorso dentro Abstruse Music, che è veramente abstruso e molto anche astratto, ma è un'astrazione veramente molto molto radicale quella portata avanti dal prossimo progetto, che si muove su un terreno dronico, e dunque ci spostiamo da una dimensione più ritmica che ha attraversato fino ad ora 451 Intersezioni con i due progetti presentati finora, Young Young e Actress, per entrare entrare dentro un universo più appunto ambientale, dronico, ma con degli elementi quasi ancestrali, con delle sensazioni, soprattutto nell'elaborazione compositiva di questo progetto, che ricorda addirittura delle dimensioni quasi impalpabili, quasi dei fantasmi sonori che vengono rappresentati attraverso questo percorso dronico molto evocativo. E parliamo del progetto Muhammad. Muhammad è un nome tipico musulmano, comunque arabo, che è stato costruito questo progetto da Ilios e Nikos Valiotis, musicisti greci, che hanno iniziato la loro produzione musicale con l'etichetta Antifrost nel 2010. Dunque sono veramente musicisti e autori nati negli anni 10 e hanno fino ad ora prodotto ben 6 album. Ci andiamo a ascoltare il terzo album della loro produzione, dunque del 2013, uscito per la PAN, Some Sacrifice, un bellissimo lavoro, soprattutto questa traccia estremamente lunga ma molto suggestiva, che vi farà addentrare dentro una idea astratta ma anche astrusa, molto interessante. Andiamocelo dunque a sentire, Muhammad, e continuiamo il nostro percorso. Ricorda ancora Ilios e Nikos Veliotis dall'album Some Sacrifice. Buon ascolto.